due compagni lavoratori portuali del porto di Gioia Tauro. Ricordate, tutti e tutte ricorderanno quanto si era, diversi decenni fa, quanto si era attribuito come rilancio del meridione alla struttura, all'infrastruttura del porto di Gioia Tauro, che però poi gradualmente è caduto in disgrazia, ma più che disgrazia, in volontà speculative che poi vedremo in particolare. Bene, sono due compagni lavoratori del porto, organizzati, auto-organizzati, che cercano di contrastare con la lotta questa tremenda situazione che hanno di fronte a loro. Bene, noi intanto vogliamo dare direttamente la parola a loro. Allora, intanto buon salve a tutti, ciao, provo il microfono, se funziona, perfetto. Ciao, buongiorno ciao. A tutti da Mimmo. Allora, ciao Mimmo e Daniele, sono questi due compagni lavoratori. Allora, prima mi raccontavi delle vicende del porto. Siccome credo che pochi conoscano, abbiano seguito negli ultimi periodi le vicende del porto di Gioia Tauro, a che punto è oggi la situazione? Cioè, com'è la realtà delle prospettive di sviluppo oppure di degrado di questa struttura, la condizione dei lavoratori, insomma, in che situazione vi trovate? Allora, intanto prospettive di sviluppo e prospettive di futuro non ne abbiamo, anche perché siamo in cassa integrazione straordinaria a zero ore, quindi dal primo di agosto veniamo dalla cassa integrazione ordinaria, che è durata 26 settimane. Su questo accordo, che è stato firmato dai sindacati confederali CGL, CISL, UIL e UGL, che è un accordo peggio, ma molto peggio di quanto è successo a Pomigliano e in altre realtà dell'Italia. Noi abbiamo cercato di contrastare quel tipo d'accordo, quell'accordo che è stato fatto, un accordo scellerato, dove in questo momento ti dicono che deve andare a lavorare dove e quando dicono loro e come dicono loro, perché hanno ottenuto con quell'accordo la massima flessibilità. Quindi hanno il potere di richiamarti a lavorare senza nessun incremento del salariale, senza nessuna cosa. Vai a lavorare con una tensione addosso, perché con quell'accordo ti hanno messo in competitività con i colleghi. Non hai nessun diritto, perché è stato tutto stralciato con quell'accordo. Parliamo di malattia, parliamo di permessi per quanto riguarda la legge 104 per l'assistenza ai familiari, non si ha più diritto, perché se usufruisci di quel tipo di diritto della 104 ti mandano a zero ore. Certo. Oh, ecco, qui infatti mi hai fatto vedere, abbiamo parlato poco fa del verbale d'accordo firmato proprio dalla FILT CGL, la Federazione Lavoratori Trasporti della CGL, la FIT CISL, la UGL Mare e l'UIL Trasporti, e in cui appunto da leggerlo vengono i brividi, perché si accettano si accetta praticamente di smantellare dal punto di vista dell'attività lavorativa, si accetta che per ogni volontà dell'impresa i lavoratori vengano messi a zero ore in cassa integrazione. Allora, intanto un quadro, perché poco fa mi dicevi che il porto in realtà, per motivi speculativi, sta vivendo un periodo di depressione, cioè alcune grandi imprese che utilizzavano il porto di Gioia Tauro adesso sono andate, si sono spostate. Sì, imprese con partenariato alla stessa azienda, quindi hanno deciso di spostare le linee, e loro parlano a causa della crisi internazionale, della crisi mondiale, perché maggiormente si lavora con la globalizzazione, il contenitore, il trasporto e globalizzazione, quindi dipende dal mercato mondiale, dallo scenario del mercato mondiale, che oggi ad oggi ci viene prospettato che è in forte depressione. Certo. Quindi, però è strano questa cosa che ci viene detta così, però lo stesso partner che lavora nell'azienda e che è partner dell'azienda dove lavoriamo noi, dove operiamo noi, si sposta, ma non va solo nei porti del Nord Africa, dove ci dicono sempre che è il dirimpettaio, quello che ha il basso costo salariale, quindi non è solo quello il problema reale è che questa compagnia, questo colosso, si sposta nella stessa Italia, nei porti, in alcuni porti dello stesso gruppo dove fa parte la nostra azienda, quindi si sposta in Italia, parliamo di La Spezia, parliamo di Savona, parliamo di Salerno, piccoli porti, porti storici, però che con la, le lobby gestiscono, le lobby della, della, della navigazione, della, hanno, fanno, fanno pressione e quindi ottengono quello che vogliono. Però a noi ci torna strano, ripeto, che una compagnia decida di andare via dal porto di Gioia Tauro e andare nell'Italia stessa. Quindi noi pensiamo, anche se di caratteristiche diverse, differenti, tra Genova o Gioia Tauro, La Spezia o Gioia Tauro, perché quelli sono regional port, quindi fanno import e export, e il Gioia Tauro fa solamente transshipment, perché la prospettiva che dicevi, dicevi tu, il rilancio del mezzogiorno per quanto paventato del, del porto di Gioia Tauro è stato lasciato solo ed esclusivamente alla movimentazione nave-nave, quindi è stato lasciato all'abbandono, voluto dalla politica tutti, dal sindacato tutto, perché oggi ci accorgiamo di quello che ci hanno, in virtù di quello che è stato firmato, di quell'accordo, ci accorgiamo che il sud e Gioia Tauro in questo caso deve rimanere tale, perché se si fosse prospettata, se è stata prospettata una, lo sviluppo, il volano di sviluppo, il Gioia Tauro come volano di sviluppo del, del mezzogiorno, della Calabria, del mezzogiorno intero, non poteva essere solo nave-nave, ma bisogna, come, come il, posso chiamarlo compagno Moretti? Sì. Dice infatti che avrebbero dovuto fare delle infrastrutture in grado di poi raccogliere, diciamo, i container scaricati e portarli e in, giro per, in giro nella rete ferroviaria. Beh, inserirli nella rete ferroviaria, che sarebbe stato... Questo era il progetto che addirittura si sviluppò alla fine degli anni 60, il progetto era, doveva essere questo. Il progetto no, il progetto iniziale del porto era come il quinto centro siderurgico. E stiamo parlando, il porto è nato col pacchetto Colombo. Sì, torniamo indietro agli anni 60. Anni 60, quinto centro siderurgico, mentre l'acciaio era in crisi, in forte crisi. Avevamo Taranto, quindi ci hanno fatto anche Gioia Tauro. Poi si è prospettata la centrale a carbone. Certo. C'è stata una lotta fortissima da parte di tutti i compagni, di tutta la popolazione della Piana, dove ha detto no alla centrale a carbone, e fin quando per un bel po' di anni è rimasto vuoto, deserto, quasi arenato il porto al 60%, fin quando arrivò quest'armatore, questo signore Angelo Rovano, e diede questa opportunità inizialmente, per quello che lui ha prospettato era una grande opera, una grande occasione da non perdere, però... Certo. Non può, non doveva e non può rimanere solo transshipment, visto le condizioni in cui ci troviamo e in cui è arrivato il porto in questo momento. Certo. Quindi, dal dire volano di sviluppo della Calabria al, all'essere un'altra disfatta tutta calabrese e italiana, allora ci fa pensare moltissimo. È chiaro. Quindi, poi prima, poco fa, mi dicevi anche fuori, prima che iniziassimo la trasmissione, che c'è anche tutta la parte non ancora utilizzata, non pienamente utilizzata della, del comprensorio del porto di Gioia Tauro, che invece viene utilizzata a fini speculativi da piccole ditte che prendono sovvenzioni per fare attività, però poi abbandono, non si sviluppa tutta l'altra parte della struttura portuale e non pienamente utilizzata, no? Sì, diciamo che noi per spazi, per niente, si chiama la Piana di Gioia Tauro, perché ha un'estesa grandissima di pianura e di tutto quello che serve, potrebbe dare massima opportunità alle aziende con una connessione diretta al porto. Sì. Abbiamo tre aree industriali, cioè abbiamo la 1, la 2 e la 3. Esatto. Di queste ne è stata utilizzata solamente la prima area, in parte, da alcuni prenditori del nord, perché vengono giù al sud presentando dei piani aziendali dove prendono finanziamenti del governo, la famosa 488, sì, famosissima. Addirittura ci sono state delle inchieste da parte della magistratura con dei risultati dove si è appurato che alcuni imprenditori del nord venivano giù appositivamente per queste cose, addirittura in quelle strutture, in quei capannoni hanno portato dei macchinari già utilizzati, riverniciati, fatti passare per nuove e lasciate là nello stato d'abbandono. Certo. Sì. Vabbè. Mentre poi le aziende al nord non hanno chiuso, certo, continuano ad operare, certo, con fortissimi profitti. Cioè, questa è una delle speculazioni più diffuse in questo paese. Torniamo però a quello che ci interessa di più, la condizione di voi lavoratori. Allora, leggendo qui questo accordo, che mi hai dato queste carte che sono veramente allucinanti, praticamente ad ogni volontà dell'impresa, comprendendo qualunque pretesto, a avere la produttività per ogni singolo lavoratore, se scende questa famosa produttività media al di sotto della produttività media oppure per altre piccole inadempienze, viene messo immediatamente a zero ore, a cassa integrazione a zero ore. Sì. Ecco, quindi la prospettiva, praticamente da quello che si capisce, che si va verso una prospettiva di chiusura, di degrado, di abbandono, cioè di non utilizzazione. Quindi questa cassa integrazione poi non potrà durare in eterno. E quindi qual è la prospettiva concreta? La prospettiva concreta è che noi stiamo da tempo dicendo e denunciando a tutti che l'azienda non ha intenzione di chiudere la struttura, perché la struttura, come dicevo all'inizio, è predominante sul Mediterraneo, posizionata è la porta dell'Europa, la prima porta dell'Europa, con quella dimensione, con quella struttura. E l'azienda, semmai noi ce lo auguriamo, decidesse di andare via, è molto appetibile. Molto appetibile perché è l'unica che fa concorrenza reale ai porti del Nord Africa. Qualcuno, se loro mollano, qualcuno verrà là. Certo, certo. Quindi strategicamente lo ridimensioneranno, lo porteranno 650 persone. 650 adesso quanti ne lavorano tra cassa integrati e attuali? Allora, nella nostra azienda ci sono 1087 dipendenti, più altri 1500 di indotto. Non parliamo di autotrasportatori, di agenzie. Arriveremo oltre 3.000 persone, quindi è un bel complesso. Potenzialmente già questa azienda in passato aveva dato una prospettiva su quello che poteva essere il futuro del porto con da 7 a 10.000 operai. Se l'area retrostante al porto si fosse sviluppata, aveva già presentato un progetto che non sappiamo come, ma nei buchi neri del meridione scompare tutto. Quel progetto è nato ed è sparito. E tutto questo invece si ridurrebbe a circa 600 persone. 650, 650 della ditta madre e poi altre un paio di... diciamo decine delle ditte terze. Decina, vabbè, non arriverà a 1.000. Quindi una falcidia tremenda dell'occupazione in quella zona. Sarebbe una carneficina. Già avendo il 50%, il 60% quasi del personale tra indotto e azienda, in cassa integrazione già hai i primi risultati. Certo. Sull'economia incide tanto. Certo. Perché andare a prendere il 50% dello stipendio. Chiaramente i consumi decrescono, quindi anche tutto il commercio, eccetera, degrada chiaramente. Là. Perché non parliamo di una realtà dove c'è dietro Gioia Tauro ci sono le metropoli, le grandi metropoli. Quindi niente, 1.000 operai. Andare senza stipendio o al 50% dello stipendio, stiamo parlando delle realtà che i comuni della Piana arriveranno a 30.000 persone, a 50.000 persone. Certo, sì, sì. Quindi rapporto sarebbe come chiudere la Fiat a Torino. Infatti. Questo. Quindi, non perché a volte si confonde la grossa realtà come vogliono far passare, perché ti dicono ma a Torino, a Pomigliano si parla di 5.000 licenziamenti, però parliamo di un indotto. Delle città che hanno centinaia di migliaia, quindi la percentuale comunque è quella, il problema è la proporzione. Sì. Ecco, quindi e voi per opporvi, andiamo al punto fondamentale, per opporvi a questo degrado come lavoratori auto-organizzati, cosa state facendo, oltre a cercare di diffondere il problema, che pensate di, che come lotta, che cosa pensate di fare? Questa lotta perché parliamo di lotta è una parola in questo momento grossissima, molto grossa, perché se parliamo di quell'accordo è stato portato al referendum, certo, voluto fortemente dai democratici della CGIL, quella cosa che mi dà molto molto fastidio, vantarsi di una democrazia controllata. Democrazia controllata. Quel referendum è passato con varie cose. Ti spiego subito, cerco di spiegarmi meglio. Quell'accordo è stato presentato ai lavoratori, prendere o lasciare. Un ricatto praticamente. Dicendo se non passa quell'accordo, l'azienda decide di mandare 460 unità a zero ore. o immobilità. Certo. Quindi licenziamento e poi immobilità. Certo. Però quel referendum è strano, perché quel referendum è stato fatto con delle persone che, parliamo degli uffici, e non ce l'ho con gli uffici perché sono colleghi e sono operai anche loro. Quel referendum è stato portato ad ingoiare agli operatori di piazzale, cioè coloro che producono, coloro che stanno a, parlo dei colleghi che stanno a 50 metri sulle gru, chi sta a 15 metri sul carrello, chi si fa passare 30 tonnellate o 50 tonnellate di contenitori sulla testa. Quindi chi ha deciso per noi è stato anche l'ufficio, la manutenzione, i segretari del sindacato che sono venuti a votare, non ci sono mai, sono distaccati fissi. Solo quando c'è da votare. C'è da votare, sono, si sono certo. presentati, e poi 79 persone non fungibili. Non fungibili significa che se passa o non passa questo accordo non gli riguarda la mazza. Guarda, niente, per parlare, cioè, per così, parlare pane al pane e il vino al vino. Cioè, certo, certo. Quindi vai, voi, ecco, la popolazione siete riusciti a, diciamo, a coinvolgerla in questa protesta, in questa lotta, perché insomma, ne vedrebbe degradato proprio tutto il comprensorio, per cui no, la popolazione dovrebbe stare con voi. Allora, diciamo che prima di cominciare questo processo non ha inizio il primo di agosto o il 28 quando c'è stata quando la cosa. Firmato qua. Stiamo parlando di 2 anni, 3 anni fa. E qualche sindacalista lo scrisse 4 anni fa su un comunicato stampa che noi siamo assenteisti. Ah. Che l'assenteismo è la rovina del porto. Quindi la campagna di diffamazione, l'attacco al diritto è iniziata da 4 anni. Quindi hanno avuto il tempo di comunicare alla popolazione, certo, e a dire questi qua sono assenteisti, non producono, quindi sono loro che stanno distruggendo il porto. Colpa loro, insomma, è colpa vostra. Sì. Capisci che se a questo che l'azienda dice il sindacato conferma e sostiene con forza, ci sono degli operai auto-organizzati che hanno avuto il coraggio di tirare le palle fuori e dire basta, ci avete rotto. C'è un piccolo sindacato che come la spina nel fianco, ma piccolo come no, piccolo come sigla, come ma è il più grosso sindacato all'interno del porto, ecco, quindi, perché rappresentiamo la maggior parte dei lavoratori. Allora, questo è. Però stiamo parlando di dell'azienda, dell'autorità portuale, della politica, e che tira tutto contro un sindacato e contro gli operai. Certo. Quindi dicono chi è il folle è quello che sta da solo. Quindi la campagna diffamatoria dura da 4 anni. Quando loro sono arrivati, la popolazione non è che c'è stata di grande aiuto, anche perché questa azienda è rimasta un paio di giorni fa, fatto 16 anni che c'è questa azienda, è rimasta arroccata all'interno di quel reticolato. Mai comunicazione con i sindaci, perché i sindaci non hanno chiesto, perché l'azienda fa l'azienda, attenzione, ma è il sindaco che del piccolo centro, del grosso centro, che non ha mai chiesto un incontro all'azienda di su che cosa sta facendo, che cosa, qual è il futuro, certo, qual è dell'investimento, della, prospettive. Cioè, le prospettive che loro hanno. Quindi la politica che non si è interessata, per 16 anni hanno fatto quello che hanno voluto, quindi l'informazione che è stata tirata fuori da noi. Certo. E proprio sull'assenteismo noi ci siamo beccati una querela dal presidente in persona della Conticip Italia. Ah. Perché lei ha fatto un comunicato stampa dove diceva che non ci sarebbe stato né Dio in cielo né giudice in terra che l'avrebbe fermata sul licenziare degli assenteisti. Noi ribattemmo sul giornale, sui volantini, come giusto e come... Certo. Come si deve fare e come sentiamo di fare ogni volta che veniamo attaccati sulla parte operaia, diciamo che proprio nel momento di crisi, nel 2008, quando si stava scrivendo sui giornali che sta arrivando la crisi, decide di mandare via 6 linee di navigazione su Cagliari. Su Cagliari, e noi abbiamo detto che siamo contro l'assenteismo, sì, ma delle navi che si è spostata sull'altro porto dove ci si sono beccati 195 milioni di euro tra investimenti della regione, con investimenti da parte dell'azienda, però si è spostata a queste compagnie di navigazioni e nessuno ha detto niente. Nessuno ha detto nulla, tranne che noi beccarci la querela e poi venire, cioè, e poi il presidente stesso viene in sede del Tribunale di Palmi a ritirare la querela, perché cioè, tutto quello che noi abbiamo detto non è che l'abbiamo detto tanto perché ce lo siamo inventati, certo, è stato tutto documentato sul sito della Regione Sardegna, non qualche compagno che ce l'ha passato, diffidiamo ormai. Va bene, che dire, oltre che farvi gli auguri per la lotta e ovviamente mantenere l'informazione, perché l'informazione, la controinformazione in questo caso, che contrasti l'informazione drogata, falsa, che hanno fatto in questi anni tutti, forze politiche, sindacali e anche amministrazioni locali, quindi bisogna farla questa controinformazione. Quindi noi qui come radio siamo disponibili per fare anche, ora questi giorni siete a Roma, però anche da lì per telefono possiamo dare continuamente, come abbiamo fatto in passato, l'informazione reale, quella di parte operaia, per cercare di contrastare questo disegno perverso. Quindi niente, no, speriamo che le cose riescano a cambiare, che la forza da sole, diciamo, non cambia. Da sole non cambia, no, non speriamo cambiare. Che la nostra forza le riesca a far cambiare, no, da sole cambiano ma in peggio, finora abbiamo capito questo. Lasciarle da sole cambiano in peggio. Io vi ringrazio di questa informazione e ovviamente vi auguro buona lotta. Mi pare che stasera state alla SNIA per raccontare la vostra situazione, più sì, o meno. Sì, oggi pomeriggio sì. A raccontare anche sì, a questa iniziativa. A questa iniziativa partecipiamo con piacere a informare tutti gli altri della realtà. Certo. La realtà, perché sì, bisogna informare dalla voce, certo. Dalla documentazione che noi abbiamo. Certo. Non è quello che si legge sul giornale. Che... No, infatti, questi sono proprio i falsari. Vabbè, in assoluto. Però se a sentire qualcuno che mi ha sentito alla radio, ma mi sta dicendo, ma che cazzo sta dicendo sta persona? Qui abbiamo la documentazione. Se vogliono gliela leggiamo, appunto, sono quattro pagine, ci vuole un po' di tempo, ma se qualcuno vuole fare il sofista, noi glielo leggiamo, quattro punti, firmata, nome e cognome del rappresentante della CGIL, gli altri li lasciamo stare, se volete si chiama, anzi il nome ce lo mettiamo subito, si chiama Antonino Calogero, Salvatore La Rocca e Domenico Laganà, questi sono i firmatari della Filt CGIL. Se qualcuno contesta, gli leggiamo pazzo per pazzo, punto per punto, parola per parola. Va bene, ti ringraziamo e auguri per la vostra lotta. Grazie. Ci sentiamo più presto. Grazie a voi di averci dato voce sulla nostra vicenda. D'accordo, ciao, a presto. Ciao.